della ricerca, ma quanto ci è voluto per ricercare e reperire tutto questo materiale anche fotografico, prima ancora che storico? Ma direi che la parte, cioè, le fotografie, quelle relative al periodo Montevarchino, le avevo praticamente tutte nel mio archivio, che poi io, diciamo, sono anche il tenutario dell'archivio dell'Associazione Fotoamatori Francesco Moghi, e quindi quelle lì. Le altre, bisogna dare merito a questi due signori qui, che hanno ritrovato le riviste, che hanno ritrovato i giornali e in parte hanno ritrovato anche su internet, mi hanno dato le indicazioni giuste, sono state tratte quasi tutte da lì, ecco. Difficile è stato poi estrapolarle dalle riviste, e a questo ho pensato io. Scusa, vorrei aggiungere, innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Questo è Stefano Neri per voi, il santo, sì, subito. Sì. Grazie per il santo, speriamo il più tardi possibile. Comunque, no, vorrei aggiungere che anche l'archivio fotografico del Gianfranco Pieraccioli è stato utile, è stato molto, diciamo, utile alla stesura del libro. Ricordiamo che appunto il padre di Gianfranco Pieraccioli ha giocato insieme a Busoni, e quindi era nata anche una certa amicizia tra i due, che è proseguita anche al di fuori del rettangolo verde, e diciamo molte fotografie ritraggono appunto Pieraccioli con Busoni nelle divise appunto rosso-blu, in questo caso sono bianco e nero, però rendono l'idea bene delle divise dell'Aquila Montevarchi. Ecco, questo appunto anche viene in ultima pagina, viene appunto ringraziato anche Pieraccioli per averci messo a disposizione l'archivio. Oh, Neri non sarà santo subito, però evidentemente poteri di telepatia, perché la mia domanda ve la io volevo fare era proprio relativa a questa foto in apertura di libro, dove appunto c'è una foto autografata da Busoni per Pieraccioli, però lui ha bell'e detto tutto, e quindi il santissimo Stefano Neri mi ha anticipato, passo il microfono a te. Sì, io ancora Stefano vorrei chiedere una cosa. Avete avuto l'idea del libro, della pubblicazione, che è un'idea molto interessante e molto bella, ne parleremo ancora nel seguito della puntata, ma adesso andiamo un attimino sulla mostra, perché tu ora, a parte gli scherzi e le battute amichevoli, hai questo, gestisci questo spazio per mostre a Montevarchi in pieno centro storico, quindi è naturale, viene probabilmente proprio naturale, fatto il libro, anche allestire una mostra su questa persona. E a differenza del libro, oppure similarmente al libro, allestire la mostra su Busoni è stata difficile, o è stata una cosa che una volta fatto il libro è venuta più o meno semplice? Allora, una piccola premessa, nel senso, la mostra è stata allestita da Massimo. Allora, io personalmente ho dato massima libertà a Massimo di gestire, perché lui tra l'altro è in gamba sotto questo punto di vista, perché alla Galleria San Lorenzo avevamo già avuto un'altra mostra che riguardava appunto un altro grande, non in questo caso di calcio ma della medicina, il dottor Catagliotti, e lui fece una mostra di fotografie d'epoca sul dottor Catagliotti e sull'ospedale di Montevarchi di inizio, diciamo, dopo la guerra. Quindi io praticamente, cosa devo dire, Massimo, per quanto riguarda cosa mettere, come mettere, come gestire una mostra, diciamo, non ha bisogno di consigli, perché sa già il fatto suo. Per quanto riguarda la Galleria San Lorenzo, praticamente questo è uno spazio che è 2 anni e mezzo che è in via Isidoro del Lungo, cioè diciamo che ha sede in via Isidoro del Lungo numero 81, è a disposizione della cittadinanza, di chiunque voglia fare qualcosa, possono essere mostre fotografiche, possono essere mostre, diciamo, di collezionismo. C'è stato mostre d'artigianato, c'è stato, siete ospiti voi come, diciamo, radio, web radio, però abbiamo avuto anche per un periodo dei cineforum a cura di Eti Street, diciamo che è stata adoperata, magari non come io speravo, diciamo in maniera molto più cospicua, però diciamo che c'è stato delle belle iniziative. Tra l'altro, rimanendo nel mondo del Montevarchi Calcio, vorrei ricordare la mostra delle maglie storiche del Montevarchi, che mai era stata fatta in queste dimensioni a Montevarchi, perché praticamente erano esposte 29 maglie che andavano da quella di Costanzo Lupo Balleri degli anni 60 fino a maglie più recenti, diciamo anche della rinascita del Montevarchi. Quindi e questa mostra delle maglie storie è inserita poi in un filo conduttore che è i 115 anni che quest'anno festeggia l'Aquila Calcio, l'Aquila Montevarchi, e che si è conclusa appunto con questa bella mostra e questo bel libro su Busoni. Riguardo al libro vorrei raccontare come proprio è nata l'idea, perché poi Giovanni Busoni per me, ma come penso per la stragrande maggioranza dei montevarchini, si sapeva solo sostanzialmente due cose: che era il più grande goleador del Montevarchi di tutti i tempi e che era livornese, quindi faceva parte di tutta quella schiera di livornesi che poi sono approdati all'Aquila Montevarchi. Ecco, queste erano due cose, però naturalmente non rendono la grandezza del personaggio, perché poi strada facendo si è scoperto tante tante altre cose. Niente, io siccome sono un piccolo cliente dove lavora Riccardo, quindi nella mia spesa quotidiana, lui siccome sa della mia passione nel fare mostre, nel mettere a disposizione della cittadinanza la Galleria San Lorenzo, un giorno mi disse, un po' anche come sfida, te che fai mostre di qualsiasi genere, ma ti riuscirebbe su Giovanni Busoni? Ma io rimasi un attimino, Giovanni Busoni, che mostre vogliamo fare su Giovanni Busoni? Non ho proprio idea. Io ho ritrovato dei giornali, delle riviste d'epoca che parlano di Giovanni Busoni e si potrebbe iniziare da queste. Ma va bene, allora me le fai vedere, si guarda. Da lì poi da cosa nasce cosa, naturalmente abbiamo buttato nel mezzo quella forza della natura che abbiamo a Montevarchi, che è Massimo Anselmi. Poi io sono andato direttamente a casa di Gianfranco Pieraccioli a Ricasoli e ho potuto vedere tutte le foto che ha appeso al muro, tutte le fotografie e tutto. Lui ci ha dato con veramente gioia, veramente, cioè senza nemmeno dire va, naturalmente la raccomandazione di tenerlo per benino, un librone un po' artigianale con attaccato non so centinaia di foto che riguardavano tutta la storia dell'inizio del Montevarchi fino magari al dopoguerra. Ecco, e con questo abbiamo cominciato a lavorarci, abbiamo dedicato tanto tempo. Io personalmente ho fatto un po' da collante, perché soprattutto il lavoro, quello grosso, è stato di Massimo e di Riccardo. Io ho cercato solamente di fare un po' il ragioniere della situazione, di vedere le spese, di tirare fuori il libro e di cercare di non rimetterci tanti soldi. E scorrendo appunto la pubblicazione, ovviamente anche per tutti i nostri ascoltatori che non sono montevarchini, non sono livornesi e quindi magari non conoscono nemmeno per sentito dire il nome di Giovanni Busoni, però ecco, una cosa che a me mi ha colpito che avete inserito nella vostra pubblicazione è che il Busoni alla fine è andato anche alla ribalta nazionale, è stato nelle figurine, e quindi volevo dire, una persona che è transitata da Montevarchi ma che poi ha fatto ben altro, che ha fatto tantissima carriera. Ora, un calciatore del Montevarchi che è stato in Gazzetta dello Sport, mi viene in mente solo il più recente, Federico Cuccoli, però non tanto per le sue gesta sportive, ma quanto per un'altra situazione, diciamo, un po' più da ridere, mettiamola così, un po' più scherzosa. Bene, Massimo, Riccardo, Stefano, chi di voi se la sente un po', o anche più di uno, di spiegarci un po' a noi, alla fine, e anche ai nostri ascoltatori, chi era Giovanni Busoni. Giovanni Busoni era, visti l'epoca in cui il calcio era proprio veramente ai suoi primordi. Sì, c'erano le squadre, c'era la Serie A, c'era la Serie B, ma c'era proprio nei primissimi anni, quando i campionati mi diceva la propria gente, tanto che capissi. E lo sport che andava per la maggiore in quegli anni lì erano altri, era la bicicletta e qualche altro sport, il tamburello, roba di questo genere. Però i ragazzi, i giovani cominciavano sin da allora a abbandonare il ciclismo e buttandosi chiaramente verso il pallone. E questo valeva per Montevarchi, questo valeva anche per Livorno. E quindi nelle piazze di Livorno erano dei campi di calcio, ma è anche da tradizione successiva, perché Livorno ha buttato veramente tanti campioni. Uno di questi ragazzini si chiamava Giovanni Busoni, grazie santissimi, come si chiamava? Piazza Sant'Andrea del Paolo, facevano il calcio con questi ragazzi. A vedere questi ragazzi, naturalmente, ci passavano degli esperti, in primis l'allenatore di Livorno. Guardava questi ragazzi e, vedendo questo ragazzino, 15 anni, se no che aveva uno scatto micidiale, una velocità veramente fuori del comune, e poi aveva un senso della rete, e un'inventiva eccezionale, lo portò nella prima scuola. Ci stette poco, però dopo, perché lui era molto affezionato alla sua piazza, aveva fatto una squadretta e partecipavano a una leva giovanile. Altri, diciamo, osservatori, un'altra squadra di Livorno, la FIL, lo prese, lo portò fra le sue fila. Fra le sue fila cosa vuol dire? Vuol dire che aveva una squadra giovanile e una squadra che faceva la seconda categoria, seconda divisione. E lo portò lì, e lo mise fra i giovani, tempo due partite, lo andava, faceva 6, 5, 4 gol a tutti, lo mise in prima squadra. E lui fece subito, a 15 anni, faceva subito la seconda divisione. Fortunatamente per noi, un dirigente del Montevarchi, che avevano l'unificazione del Montevarchi, era venuta nel 1926, un dirigente di Montevarchi si chiamava Pistolesi, che poi io ho trovato anche documenti ufficiali, lui era proprio il segretario del club sportivo Aquila. Però antecedentemente questo signore era proprio un amante del calcio, che tra l'altro era di Siena, ma insomma abitava a Montevarchi. Questo signore era veramente un talent scout. Tramite i suoi rapporti, tramite le sue amicizie, andò a vedere questo ragazzo, ve lo segnalarono, insomma, fece tanto e poi tanto che riuscì a portarla a Montevarchi con una cifra proprio irrisoria. Portata a Montevarchi, convinto la famiglia, perché nel libro troverete degli aneddoti molto bellini anche sulla parte giovanile del Busoni. Montevarchi fece due anni. Al secondo anno già la Serie A era su di lui. Il Napoli cercò di portarlo via, fecero degli accordi con la società, ma la piazza montevarchina, il momento che lo venne a sapere, ci fu veramente una sollevazione popolare. E tant'è che misero in crisi la dirigenza, tant'è che il presidente dovette ritornare indietro delle sue decisioni, riportò i Busoni a Montevarchi, gli fece fare un'altra annata qui da noi e dette le dimissioni, perché insomma, la cifra che gli offriva in Napoli era bella. E per rifiutare, per non mandare a Napoli, gli chiese poi una cifra spropositata addirittura. Naturalmente questo un anno lo potete fare, poi si presentava il Torino, e non solo il Torino, la Juventus, il Milan, tutte queste squadre, la Fiorentina, cercarono di accaparrarselo. Il primo tutti fu Torino, e andò a giocare a Torino per sostituire un mostro sacro che si chiamava Libonati, era veramente, che è ancora il vice capocannoniere del Torino, tanto per capire di chi si tratta. Doveva sostituire lui, però questo Libonati, da quello che si intuisce anche da quello che si trova scritto, gli mise qualche bastone fra le ruote, cioè lui non voleva smettere, e allora, insomma, morale della favola, lui non ebbe una, anche se fece una saccata, bisogna invece diversi il cassetto. E la cosa più bella lì, probabilmente, nella nata di Torino, nel gennaio andarono a fare un torneo a Parigi, partita che lui invece vinsero 4-1, e Busoni alla squadra che c'è. No, Red Reims, quella che fondò Giulio Di Meo, che è la squadra di Giulio Di, quello che è della Coppa del Mondo, cioè, per capirsi, e vinsero 4-1 e Busoni gliene fece 3, ecco. Poi proseguì la carriera. L'anno dopo il Livorno, che dice del processo un bimbo, dice è ritornato in A. Il presidente Livorno volse fare dei sacrifici e riportò a Livorno, anche perché era l'anno molto probabile che avrebbero dovuto inaugurare lo stadio nuovo, e riportò Busoni, e insieme a Magnozzi lo riportarono a Livorno, fece uno squadrone. Però anche lì dovettero fare le prime partite tutte fuori casa, perché lo stadio non era pronto. Quando lo stadio era pronto, casualmente giocava con la Fiorentina. Una prima mezz'ora il Livorno 2-0, la Fiorentina mi mise sotto, proprio veramente gli fece un assedio con tutte, e poi verso la fine, con un gol di Busoni, verso la fine Busoni mi fece il terzo, e non vedi io che cosa, cioè ancora a Livorno si ricordano di queste cose. Primo anno il Busoni fece questo, e questo gli portò addirittura la convocazione in nazionale B. Siamo nel 1934, si doveva fare i campionati del mondo. Viene convocato in nazionale B, va a Trieste, la nazionale italiana vince 2-0 con un gol del solito Busoni. Poi, quando dovettero stringere, diciamo, per quanto riguarda le convocazioni per i campionati del mondo, Busoni dovette lasciare il passo, anche se lui, quell'anno lì, era arrivato secondo nella classifica dei carabinieri italiani, quindi roba grossa. Però dovette lasciare il posto ai vari Meazza, ai vari Spiola, eccetera, eccetera, e quindi quando basta il nome, alla fine ebbe ragione il commissario tecnico Pozzo, che poi, se leggerete il libro, abbiamo riportato delle frasi di Pozzo, che parlava in termini veramente molto molto importanti per quanto riguarda questo ragazzo. Questi erano sicuramente gli anni migliori. L'anno successivo, cioè l'anno dopo, il Livorno però ridisfece la squadra, e però aveva bisogno di soldi, e quindi lo rivende a Napoli. E a Napoli Busoni ritrovò il suo vecchio tecnico del Montevarchi, Cescai, che a Montevarchi chiamavano Cescai, e che lo volle in tutte le maniere, e fece anche lì capo cannoniere del Napoli, anche per capirsi del bene di questo grosso personaggio. Però in Napoli, in quell'anno lì, non andava bene, ma aveva un sacco di debiti, dovettero venderlo. Ebbene Massimo, allora, collegandomi proprio a questi racconti che tu ci hai fatto, e alla fine anche di Coltelli degli anni 30, per quanto riguarda l'accaparrarsi un calciatore di grande esperienza e di grande capacità, proprio come era Giovanni Busoni, chiedo a Riccardo, che durante la sua ricerca forse mi potrà sollevare dal dubbio di questa curiosità. Busoni, nonostante questa mirabolante carriera, come diceva appunto Massimo, addirittura le preconvocazioni per la nazionale del mondiale del 1934, sceglie nel 1946 di

Volevo dire, a parte Stefano Neri sta già organizzando altri libri, perché evidentemente Pan Bianco si meriterebbe un libro e forse più di un libro, ma anche una bella indagine si meriterebbe Renato Pieraccioli, che io vorrei riprendere e tornare. Vorrei chiedere a te, Riccardo, perché probabilmente ci ascoltano anche persone che non sono della zona né di Montevarchi né di San Giovanni, però Riccardo Pieraccioli purtroppo la sua vita ha avuto un epilogo piuttosto misterioso, ed è comunque, potrebbe essere interessante indagarlo o raccontarlo. Potresti sinteticamente, senza entrare troppo in dettagli, spiegarlo a eventuali ascoltatori? No, so che è stato fatto anche un video documentario su Pieraccioli, che è il derby del 44, e sono venuti da Milano, addirittura c'era un regista delle Iene che ha fatto questo documentario, che voleva fare addirittura una fiction su, perché sembra che il caso Pieraccioli sia un caso più unico e raro. Di tutto, il primo tra virgolette omicidio o assassinio nella storia del calcio italiano, pare che prima di Pieraccioli non ci sia stato casi del genere. Poi è un caso che, oltre al campanile sportivo, c'è la politica, insomma è qualcosa probabilmente da rivedere, da farci qualcosa. So che qualcuno ci sta già lavorando in questo senso, anche per dare, insomma, per ristabilire una verità storica, per ristabilire anche per i familiari quello che è accaduto, perché insomma è una cosa che lascia veramente perplessi tutti. La morte di una persona per bene, veramente per bene, in un campo sportivo, in un'epoca che insomma doveva essere il calcio una passione e un divertimento. È una di quelle storie dove lo sport si mescola con la società del tempo, e quindi diventerebbe, sarebbe anche molto interessante riuscire a scavare per capire e per raccontarla nel modo più veritiero possibile. Sì, io ti ripeto, so che qualcuno ci sta lavorando e probabilmente si spera venga fuori qualche cosa. Io so anche chi è qualcuno, perché mi ha già detto la collaborazione in questo senso. Allora potresti dirgli di venire in trasmissione, però, si potrebbe fare. Però, siccome è una materia molto delicata, io lo seguirò per quanto riguarda le notizie che so e anche le testimonianze delle persone che conosco, però io personalmente non preferisco non affrontare in prima persona il problema, anche perché tutto sommato credo che poi la verità, penso che non verrà fuori mai, a distanza di tanti anni. C'è tutta una serie di testimonianze, ci sono tutta una serie di dubbi, ci sono tutta una serie di ragionamenti. Tra l'altro è stato oggetto di un'inchiesta da parte dell'esercito alleato, nel quale in Montevarchi c'erano i sudafricani. È stato riaperto nel 52-53 il caso dalla prefettura per motivi di attribuzione della morte presunta. Comunque è stato riaperto il caso, però se non sono arrivati loro alle conclusioni, oggi credo che se non viene qualcuno e ci dice veramente, con prove certe, quello che è successo, si va su dubbi, su testimonianze, su tutto quello che volete, ma la verità credo che sarà abbastanza, non dico impossibile, ma quasi trovata. Beh, però magari riuscire a riassumere due o tre ipotesi lineari. Una ricostruzione però storica, però, credo che sarebbe opportuna. Infatti. E Massimo, però, per gli ascoltatori di Radio Big World che non sono delle nostre zone e che quindi non conoscono il caso Pieraccioli, in brevi parole riassumi un po' il caso Pieraccioli. Durante il periodo bellico, negli anni 43-44, il campionato si era fermato, quindi andavano avanti a forza di amichevoli con quei ragazzi giovani, meno giovani, perché i più grandi erano tutti andati al fronte, e facevano delle amichevoli. Nel dicembre del 44 un'amichevole fu fatta a Montevarchi San Giovanni di Sé. Dopo due settimane dovevano fare l'amichevole a San Giovanni, con gli arbitraggi erano nel posto, eccetera, eccetera. Monte Paschi ci fu confusione, nel senso che l'arbitraggio, giustamente, Monte Paschi, no, tirò dalla parte del Monte Paschi. Quando si andò a San Giovanni, l'arbitro era san giovannese e tirò dalla parte di San Giovanni, gli detto di rigore che non c'era. E il nostro portiere, che poi fra l'altro Babacci se ne faceva anche una colpa, lo parò. E da lì nacque tutta una confusione. Ci fu un assalto agli spogliatori, così ci hanno raccontato. E morale della favola, lui non è più tornato a Montevarchi. Probabilmente è stata una disgrazia, anzi sicuramente io voglio dire che è stata una disgrazia, però la miseria, che non si deve sapere come è andata a finire, dove è andata a finire, che gli si possa dare una sepoltura, che non si possa, io sinceramente dal vecchio Montevarchino e l'ho ancora nel corso. Benissimo, siamo partiti, abbiamo affrontato il tema del libro Giovanni Busoni Citto, abbiamo finito parlando e rendendo omaggio anche alla memoria di Renato Pieraccioli. Prima di lasciarvi ai saluti dei nostri ospiti, vorrei ricordarvi che questa è l'ultima puntata dell'anno per la nostra trasmissione Ti racconto una storia, Il volo dell'Aquila. Riprenderemo il 18 di gennaio, quindi nel 2018, ma malgrado questo periodo di pausa natalizia dovuta alle festività, non vi lasciamo soli, perché comunque per le prossime 4 settimane, tutti giovedì sera su Radio Bigorda, il nostro stesso orario, ci sarà un purpurri, una sorta di minestrone alla Montevarchina, dove appunto i nostri registi si uniranno insieme proponendovi il best of di Ti racconto una storia, Il volo dell'Aquila. Quindi continuate ad ascoltarci, poi ci risentiremo ovviamente a inizio anno nuovo. Io colgo l'occasione e poi lascio il microfono prima a Fumino, poi ai nostri ospiti per i saluti, per salutarvi, per farvi i miei più cordiali e sinceri auguri di buone feste. E quindi Fumino, a te. Innanzitutto io mi unisco ai tuoi auguri di buone feste e di buon anno per tutti i nostri ascoltatori e per gli ascoltatori di Radio Big World. E però non me ne voglia il nostro regista di stasera, che non lo abbiamo citato, alla fine è un regista molto importante, è Gianni Vieri, direttamente un regista montevarchino e un ragazzo giovane, avrà sicuramente futuro nel mondo del cinema. E se volesse anche solo salutare il nostro pubblico, ci farebbe molto piacere. Grazie, è stato un piacere avervi ospitato qui all'Aquila Store e sentire queste storie fantastiche per me che sono un ragazzino. Bene, questo era solo per dimostrare che i nostri registi sono veri, ci sono ad ogni puntata, quindi quando c'era Scorsese, quando c'era Almodovar. Stasera c'è Gianni Vieri, l'avete sentito in diretta e vi ha parlato. Bene, allora anche io mi unisco ai ringraziamenti all'Aquila Calcio 1902 per lo spazio concessosi questa sera dentro l'Aquila Store in via Roma, in pieno centro storico di Montevarchi, così come in pieno centro storico di Montevarchi è la galleria San Lorenzo, da quale trasmettiamo abitualmente, grazie a Stefano Neri. Sempre sia lodato. Ringrazio i nostri tre ospiti di stasera, alla fine importantissimi, Massimo Anselmi, Stefano Neri e Riccardo Rossi, per aver scritto il libro Giovanni Busoni, Icitto, che io invito i nostri ascoltatori a cercare e a cercare di acquistare, perché alla fine per un montevarchino vero non c'è ragione di mancare l'appuntamento con la mostra all'interno della Galleria San Lorenzo in via Isidoro 81 a Montevarchi, o di acquistare il libro direttamente alla galleria o direttamente all'Aquila Store o all'edicola Righi, oppure per chi non sia di Montevarchi o toscano di contattare direttamente Radio Big World, perché il libro in qualche modo ve lo faremo avere. Quindi grazie Riccardo, Stefano e Massimo per la vostra presenza qua nei nostri studi. Dopo una bottiglia di prosecco naturalmente siamo un po'... Però è stato molto piacevole il tutto e il mio appello è di comprare il libro, di visitare la mostra, perché merita farlo. Il mio auspicio poi è che iniziative del genere possano ripetersi, anche se non da parte di noi tre, visto che Montevarchi ha personaggi, eventi storici da divulgare e far conoscere. E poi l'ultimo appello, ripeto, agli ultras della curva: se facessero una bella bandiera con i loghi, con l'immagine di Busoni e magari Balleri insieme, per un'unione tra il passato e il presente, speriamo il futuro del Montevarchi Calcio. Allora, anch'io mi unisco, diciamo, a quanto è stato detto per il libro, nel senso che veramente c'è tanta storia, c'è, sono tante foto, c'è tante cose che magari non si conoscono, inerenti a quel periodo, inerenti al Montevarchi Calcio, inerenti al panorama nazionale del calcio. E quindi acquistatelo, perché veramente è una parte della storia montevarchina, ma nazionale, del calcio. Quindi niente, anch'io faccio gli auguri di buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Ringrazio naturalmente chi ci ha invitato per questa trasmissione e ai prossimi appuntamenti. Anch'io faccio appello a tutti gli sportivi montevarchini o a tutti gli sportivi in genere di procurarsi questa bellissima pubblicazione, non perché l'abbiamo fatta noi, ma perché veramente è uno spaccato di storia del Montevarchi Calcio. Quello che abbiamo stasera raccontato è solamente una piccola parte, il resto vi invitiamo a comprare il libro e potete leggere quello che noi vi abbiamo tramandato, con ricerche anche piuttosto pesanti per quanto riguarda, diciamo, le difficoltà che abbiamo trovato. Faccio gli auguri a tutti di buone feste e chiudo con la frase del nostro super presidente: ale ale rosso blu. E unendomi agli ultimi saluti di Massimo, ringrazio ancora una volta i nostri tre ospiti e vi auguro buone feste e buon anno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Big World. Grazie. E Riccardo Rossi, che è un sportivo doc montevarchino con l'etichetta nera, nel senso del vecchia Romagna, insomma, ecco, in quel senso lì. Bella etichetta! No, ma è venuta una... Cazzo, è la vecchia Romagna! Mi volevo riprendere sui doc e io invece riprendimi sono andato più giù. Purtroppo, nel senso che non eri ancora chiaramente un fotografo in quegli anni. Non eri nemmeno nato. Sono qui con numeri 18, 2018, Dio. L'ho detto giusto, perché poi io ancora mi sembra essere 2015. Mi sembrava che il 2018 fosse successo nel 46. No, 44. Montevarchi c'era stata l'occupazione zista. Sì. Nel 44 i zisti se ne andarono e ci fu l'occupazione sudafricana, cioè degli alleati, qui c'erano i sudafricani. Sì. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Grazie e andate a vivere. Boni, sto registrando. Scusa. Boni. E Neri, sua santità è sempre un pelagato. Grazie anche lo spumante come sponsor, sì, ufficiale. Il Basti Gizzi, Pippo sempre presente. Ce la può fare, dai. No, aspetta. No, me la ricordo la domanda. Il prosecchino è arrivato. È il prosecchino. Il minestrone alla Montevarchina non è altro che il collage delle puntate del 2017 del Volo dell'Aquila, che è però probabilmente migliore dello stufato alla San Giovannese, che pare sia stato fatto con la carne marcia. Su questo non ci sono dubbi.